Buonasera, benvenuti qui al Centro Trevi, Trevi Lab, la serata organizzata dalla Biblioteca Claudio Augusta. Per stasera abbiamo in programma la presentazione del libro Le Alpi in Fiamme, dell'editore Rezia. Abbiamo con noi Stefano Gaio, Michele Argente e Sofia Farina, che sono gli autori, e poi con noi c'è anche Linda Schwarz, cofondatrice di Protect Our Winters Italy. Vi ricordo anche quali sono i prossimi appuntamenti della biblioteca. La prossima settimana abbiamo una cosa un po' diversa, la Fundgrube. Dal 20 maggio avremo in questa sala proprio una raccolta di libri che la biblioteca, la nostra biblioteca, quindi il Claudio Augusta e poi anche il Centro Multilingue, mette a disposizione della cittadinanza che vuole avere qualche libro, insomma, che gli interessa. Sono materiali che il Centro Multilingue ha eliminato oppure materiali che la biblioteca ha recuperato e che non ha intenzione di tenere. Dopodiché vi parlo invece dei classici appuntamenti, quindi le due presentazioni del libro del 20 e del 21. Abbiamo La Patria alla frontiera di Fabio Todero, che sarà con Andrea Di Michele il 20, appunto, qui da noi alle 17:30. E poi invece un libro di poesie, Atropo Lachesi Cloto, il nuovo libro di poesie di Sandro Pecchiari, e con lui ci sarà Nadia Mazzardis, e quello sarà invece il 21, quindi martedì e mercoledì prossimi, questi due appuntamenti. Intanto vi auguro una buona serata e vi ricordo che la biblioteca è qui dietro, quindi potete venire quando volete. Va bene, passo la parola a Felix Obermeier della editrice Rezia. Grazie mille anche per l'accoglienza qua, per l'ospitalità da parte della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta. Ringrazio anche io che ho potuto seguire questo progetto molto importante come project manager da Edizione Rezia. Ringrazio l'Ufficio Educazione Permanente Audiovisivi Biblioteche per il sostegno nel fondo editoria della provincia autonoma di Bolzano, il dottor Luca Bizzarri, la dottoressa Michela Cecilia, che hanno seguito questo progetto molto con tanto interesse e motivazione. Poi vi invito, adesso approfondiamo le tematiche del libro nella conversazione che Linda avrà con Sofia, Michele e Stefano. Poi vi invito a sfogliare il libro, c'è un bancone di libri dietro, magari anche comprarlo, lasciarlo poi firmare dagli autori, e per tutte le domande potete anche venire da me. Vi auguro una buona presentazione e ringrazio di essere qui in questa splendida giornata, e passo la parola a Linda Schwarz, la moderatrice di questa presentazione. Grazie. Grazie Felix, grazie mille a tutti e tutte che siete qua. Oggi voglio cogliere l'occasione anche per presentarvi un po' meglio i nostri autori e autore. Abbiamo con noi Sofia Farina, che lei ha... è una della mia parte della mia fondazione, associazione, diciamo, Protect Our Winters. Lei è la ex presidente, ma comunque si impegna anche con l'ambientalismo in generale e ha studiato fisica e ha fatto il PhD in scienze ambientali. Invece partiamo da Michele, che è l'ingegnere energetico, e anche lui è un fondatore dell'associazione Ci sarà un bel clima, che opera a livello nazionale e, diciamolo, divulgatore, no? Non usiamo la parola influencer. No, è un divulgatore. E Stefano non conoscevo prima, ma è un graphic designer, da quello ho capito, e anche una guida escursionista. Un accompagnatore di media mondiale. Accompagnatore di media montagna, ok, un po' diverso, io di queste cose non capisco molto, però comunque, grazie mille, siamo tutti chiari su questo. Niente, sono molto contenta di essere qua oggi, perché la prima volta che ci siamo conosciute, diciamo, sul palco con Sofia, è stata la prima volta che Luigi Casanova ha presentato il suo libro Ombre sulla neve qua in questa biblioteca, che era 3 anni fa, e comunque siamo cresciuti, diciamo, tutti quanti. E niente, partiamo con la prima domanda in generale sul libro, che a me interesserebbe molto sapere per voi cosa significano le terre alte. Magari partiamo con Stefano, che è al mio lato destro. Va bene. Certo. Beh, allora, per me le Terre Alte insomma rappresentano un po' ormai il luogo di casa, perché mi sono spostato da Trento in realtà da poco in una valle più secondaria del Trentino, che è la valle del Vanoi. Non so se conoscete dov'è, comunque è l'estremo oriente del Trentino, per questioni, tante questioni, tanti motivi, e diciamo che lì ho ritrovato un po' veramente le mie origini anche riferite alle Terre Alte, seppur Trento non che non sia tra le montagne, insomma, come Bolzano, però ecco, sono arrivato in una dimensione molto più piccola e molto più ridotta, e forse la definisco così per quello che è per me adesso il posto dove abito, e quindi per me le Terre Alte forse adesso sono una nuova casa, diciamo così, ecco. Io poi, essendo comunque il grafico illustratore di questo progetto, ho un certo tipo di rapporto con queste tematiche, insomma, magari non così approfondito come i ricercatori e gli scienziati che lo hanno scritto, ecco, quindi ovviamente io mi interesso di Terre Alte anche perché frequento la montagna sia come appassionato che come accompagnatore di media montagna, e poi insomma sempre legato alla montagna col CAI e via dicendo, quindi faccio anche del volontariato in quelle associazioni, e quindi per me le Terre Alte sono collegate a questo mio modo di vivere la montagna, ecco, diciamo così. Vado io. Beh, io in realtà sono cresciuta sul mare e ho scoperto le Terre Alte solamente all'inizio dell'università, a 20 anni, e però poi mi sono proprio completamente innamorata della montagna, e quindi ho scelto di fare il dottorato di ricerca all'Università di Trento, proprio perché cercavo un'università che avesse la facoltà che avevo studiato, ma che fosse quanto più vicina possibile alle montagne. E da lì poi appunto mi sono specializzata come ricercatrice sulla meteorologia alpina e ho iniziato a frequentare le montagne, insomma, quasi su base quotidiana, insomma, lavoro permettendo. Ho iniziato a fare attivismo insieme a Linda con Protect Our Winters, che è un'associazione che lavora proprio sull'impatto dei cambiamenti climatici sulla montagna, quindi diciamo che le Terre Alte sono diventate abbastanza totalizzanti in un breve periodo, e adesso non riesco proprio a immaginare di vivere per lungo tempo lontana dalle montagne. Quindi ecco, un po' lo scrivere questo libro è proprio un processo che è nato dopo diversi anni di vita a stretto contatto con le montagne, con le persone che abitano le montagne e soprattutto con le persone che studiano le montagne, e quindi un po' da questa esigenza di collegare tutti questi puntini dell'attivismo, della scienza, dell'abitare in un unico discorso. Sì, ciao, sono Michele, io sono della provincia di Belluno, quindi sono nato in realtà in media montagna, in Val Belluna, quindi che è abbastanza bassa, e ho studiato a Milano, ho fatto un bel po' di anni a lavorare là, adesso da gennaio di quest'anno sono ritornato a abitare in montagna, in provincia di Belluno, montagna, 400 metri, quindi non è proprio neanche montagna vera, però siamo alle porte del Parco Nazionale, e ho conosciuto appunto Sofia e Linda durante un laboratorio che avevamo fatto insieme, proprio parlando di clima e di montagna, e tra tutte le diverse realtà c'eravamo noi, dice, c'era un bel clima, c'erano loro, e quindi anche la vicinanza geografica, forse, no? Il fatto comunque di essere tra Belluno, Trento, Bolzano, dei territori abbastanza vicini, abbiamo detto beh, cominciamo a collaborare a stretto contatto, cerchiamo di tenere una rete che possa parlare, no? di montagna, che possa parlare di clima e possa anche parlare degli effetti del clima sulla montagna e viceversa, e poi ne è nato appunto il libro che abbiamo fatto. Ecco, la mia prossima domanda è proprio quella: perché è nato questo libro? E io personalmente, essendo dell'Alto Adige, mi chiedo perché avete un focus sull'Alto Adige, perché non Trento, Trentino? No, vabbè, allora vado io come risposta. Diciamo che ne avevamo pensato un po', avevamo parlato con Sofia all'inizio, no? Che sarebbe stato bello appunto mettere un po' a terra tutto quello che noi continuavamo a leggere e a scrivere, anche a divulgare su quello che appunto riguarda le montagne, le Alpi, gli Appennini, quindi un po' a ampio spettro, che riguardava appunto di cambiamenti climatici, società, montagne. E poi abbiamo parlato appunto con Sofia di coinvolgere tramite tua idea Stefano per la parte grafica, in modo da fare un libro che noi vedevamo sempre all'estero ma mai in Italia, che era quindi un libro che era molto accessibile dal punto di vista della lettura, quindi che conteneva anche delle grafiche, comunque delle facilitazioni per capire dei concetti che sono molto difficili anche per me, tante volte è difficile reggere dei report che escono tantissimi ogni anno, però le informazioni dobbiamo in qualche modo filtrarle per renderle anche poi disponibili al grande pubblico, no? La difficoltà è un po' anche quella di tradurre dei concetti abbastanza difficili sia dal punto di vista proprio numerico della scrittura che poi dal punto di vista grafico, e quindi appunto abbiamo, poi lascio la parola a Sofia e Stefano su questa parte qua, abbiamo deciso di fare proprio un libro che dicesse un po' lo stato dell'arte adesso delle Alpi sul clima. Perché il focus all'Alto Adige? Perché abbiamo l'editore di Bolzano, molto semplicemente. diciamo che comunque la provincia di Bolzano è un buonissimo caso, perché ha dei casi sia proprio di impatti che sono molto grandi, legati al clima, però è anche una provincia che in realtà si sta dando tantissimo da fare. Cioè, per me, se io la posso portare in giro quando parlo con altre persone, comunque quando parlo delle serate, il caso dell'Alto Adige è sempre un caso che in realtà è già una marcia avanti. Cioè, come noi dovremmo fare in Italia se fossimo nel 2025? C'è l'Alto Adige, noi sì, in Italia siamo un po' più indietro, quindi è anche giusto parlare di come la politica, una buona politica, sta portando avanti queste iniziative. Sì, perché tra l'altro anche proprio la realizzazione del libro è stata possibile grazie ai fondi della provincia, che dimostra come la provincia investa anche nell'opera di divulgazione di queste tematiche. Tra l'altro Linda è stata parte dello stakeholder forum del Clima Plan 2040, quindi diciamo abbiamo seguito anche tramite Linda un po' tutto il processo di proprio attivazione politica della provincia sul tema del cambiamento climatico, e devo dire anche io da abruzzese veramente vedo quello che succede qui come proprio un obiettivo, e come anche io un caso di studio da portare in giro. Quindi secondo me era proprio molto funzionale parlare di questa provincia, perché sia è molto impattata effettivamente dal cambiamento climatico, ma sia ha le risorse e probabilmente anche la volontà politica di affrontarle con concretezza e con, insomma, investendoci. Beh, visto che avete già posto una domanda, se volete sempre c'è spazio, quindi alzate solo la mano e vi do la parola ovviamente. Ma mi collego a questo, anche diciamo nel mondo dell'Alto Adige non tutto è la perfezione in sé, come potrebbe sembrare a volte, quindi mi chiedo, secondo voi, per aumentare la consapevolezza collettiva riguardo a questa crisi, che ancora oggi sembra essere sorprendentemente sottovalutata, cosa si potrebbe fare, cioè, per coinvolgere più gente, per farli capire veramente che siamo a rischio? Magari vuoi rispondere te in questo caso? No, vado io. Lascerei la parola a loro, poi se volete aggiungere. Va bene. Beh, secondo me l'Alto Adige è anche molto interessante perché tanti degli impatti antropici sulla provincia non derivano dalle persone che ci vivono, ma derivano dal turismo, no? Poi è ovvio che è anche l'economia locale che guida il turismo, quindi non è che si può distinguere completamente tra le diverse cause, però non si tratta solamente di educare, cioè probabilmente educare la popolazione montana. Cioè, la popolazione montana è già a un buon livello di consapevolezza perché vede il contesto intorno a sé cambiare anno dopo anno, mese dopo mese, mentre la grandissima mole di persone che frequenta l'Alto Adige un po' in tutte le stagioni, probabilmente vedendolo solamente per una settimana, 10 giorni, ha meno consapevolezza su quello che succede. E quindi, ecco, secondo me credo che sarebbe molto, molto utile comunque rendere il turismo anche un'esperienza formativa, perché magari appunto delle persone che abitano in pianura, nelle grandi città, visitando l'Alto Adige per la sua bellezza, per tutti gli sport che si possono fare, magari possono anche tornare a casa portandosi un po' di consapevolezza in più su quelli che sono gli impatti su questi luoghi che tutti amiamo, non solamente chi li abita. E quindi credo che sicuramente cercare di utilizzare, insomma, di cambiare un po' la prospettiva e non cioè non far sì che il turismo sia quasi sempre negativo, che abbia sempre un impatto negativo, ma invece rigirarlo un po' e cercare di renderlo un turismo che possa anche creare educazione, conoscenza e consapevolezza, che è un po' ad esempio quello che si fa quando si vanno a guardare i ghiacciai e ci sono i pannelli che spiegano: guardate, il ghiacciaio 10 anni fa era qui, 20 anni fa era qui, e quella cosa lì è così immediata, così facilmente comprensibile, che effettivamente ti fa tornare a casa con un po' di groppo alla gola, no? Sì, sì, ma secondo me, per rispondere a questa domanda, per creare più consapevolezza, secondo me ci vorrebbe anche un po' più onestà da parte nostra, no? Nel senso, adesso noi vediamo che tutto quello che riguarda, diciamo, adesso vi parlo un po' da ingegnere, no? Quindi la parte delle rinnovabili è molto demonizzata, anche se comunque secondo me è demonizzata a un livello politico, mentre le persone comunque stanno ancora andando avanti, cioè anche la parte proprio più industriale, se vuoi, comunque del mercato va avanti comunque su quella linea là. Ci vorrebbe un po' più onestà nostra per dire che gli investimenti che stiamo facendo adesso, la consapevolezza, no, che stiamo creando adesso sulle generazioni attuali, ma anche su quelle future, è per far sì che riusciamo a vivere un domani decente, cioè un domani buono. Nessuno di noi vuole tornare chiaramente alle caverne, alle candele, però dobbiamo anche capire che il nostro stile di vita attualmente, anche quindi il modello economico, ci ha portato ad avere questo problema qua. Questo problema qua è meglio risolverlo subito che risolverlo quando diventa molto tardi. Chiaramente sull'Alto Adige abbiamo un esempio super lampante, che non è che vogliamo sempre parlare di sci, però secondo me, come diceva Sofia, proprio dal punto di vista visivo è l'industria quella che ci fa capire subito, no? Il fatto di dover comunque agire in poco tempo. L'Alto Adige, anche nella mia provincia di Belluno, chiaramente viviamo tanto di turismo, viviamo tanto di sci, però con gli ultimi inverni che sono sempre più caldi, con la necessità di innevare sempre di più, ci sono dei costi che a un certo punto dobbiamo anche capire se sono dei benefici o se sono delle perdite, e è meglio farlo forse prima, no? Abbiamo tutti i dati, li abbiamo da tanti anni, no? Questi dati, e cercare di fare proprio la transizione ecologica, no? Questa parola che magari può fare paura, perché in realtà ti dice che tu devi cambiare tutto il tuo modo di vivere. In realtà può essere una bellissima occasione, perché nessuno di noi nella storia dell'umanità ha avuto nella sfiga, tra virgolette, no? Cioè l'opportunità anche di poter ripensare a un modello di società, di economia anche totalmente diverso. Quindi secondo me la consapevolezza è anche proprio l'onestà di dire: ok, come abbiamo fatto con il Covid, fermiamoci un attimo, non così bruscamente, ma fermiamoci e ripensiamo a come poter vivere all'interno dei limiti proprio fisici del nostro pianeta. In questo libro non state parlando soltanto di crisi climatica, ma anche di fake news, che è una parte cruciale al giorno d'oggi, diciamo che anche i social vanno a bomba. E mi chiedo come si può dialogare con chi ne ha influenzato di fake news? Come riesci a trasmettere questi valori, ma anche dati e fatti? Sì, Linda si riferisce al fatto che il libro si apre con un primo capitolo che racconta proprio lo stato dell'informazione in Italia, quella che si chiama la dieta mediatica degli italiani, cioè come gli italiani si informano, dove si informano, e il nodo cruciale di questo discorso è che la maggior parte degli italiani e delle italiane si informano tramite internet e tramite i social media, e che questo proprio il mezzo internet e il mezzo social media ci espone a dei meccanismi tali per cui siamo più facilmente esposti alle fake news, e in generale quindi queste fake news, che sono delle informazioni false, delle notizie false, che però per una serie di meccanismi proprio, diciamo, di come è formata la rete che costituisce il web, diventano molto molto popolari. E quindi chiaramente poi è difficile trovarsi di fronte a una persona che ha visto la stessa notizia falsa però apparire in tanti luoghi, diciamo, virtuali, e quindi si è convinta che effettivamente sia un'informazione corretta, ed è difficile fare quell'operazione che in inglese si chiama di debunking, che vuol dire prendere la notizia, andare a controllare quali sono le fonti, realizzare se effettivamente erano affidabili o meno. Ed è chiaramente un percorso un po' complesso da fare, richiede fatica, bisogna essere consapevoli del fatto che ci possono essere delle notizie false, quindi saperle riconoscere, eccetera, eccetera. Quindi è un problema a cui siamo esposti tutti, e diciamo che anche a livello istituzionale, ad esempio l'Unione Europea è molto consapevole di questo problema e ci sono in corso dei progetti di sensibilizzazione, ci sono degli strumenti diciamo in rete, anche non in rete, per capire come proteggersi dalle notizie false. Poi su come, diciamo, convincere una persona, diciamo, noi come scienziati ci è capitato di trovarci a dialogare con delle persone che erano molto molto convinte di un fatto che era completamente antiscientifico, ed effettivamente è un dialogo un po' complesso da avere con una persona che è molto convinta di un fatto, e invece andare insieme, prendersi il tempo di andare a guardare le fonti, andare a guardare gli articoli scientifici, andare a capire quali sono le fonti autorevoli e quali non lo sono. E, però è proprio una delle idee di questo libro era proprio: mettiamo tutte le informazioni che, insomma, che derivano dal mondo scientifico, con le fonti, con le citazioni, e le spieghiamo in un modo quanto più semplice possibile, per cui anche se noi stessi vogliamo porci come delle persone che possono aiutare a, diciamo, eliminare le fake news, comunque capire quali sono le notizie vere e quali sono le notizie false, è un po' un libro in cui è molto facile andare a recuperare le informazioni scientificamente vere. Poi ovvio non è che questo libro sia la soluzione, però può essere uno strumento, ad esempio, con cui mostrare con dei grafici molto facilmente leggibili, dei colori facilmente leggibili, che cosa dice la scienza, senza dover andare a cercare un articolo scientifico scritto in inglese lungo 35 pagine, che ovviamente crea una barriera e fa sì che sia un'informazione non inclusiva. Quindi in generale un po' la divulgazione scientifica cerca di fare questo passaggio, di prendere le informazioni complesse del mondo della scienza e renderle potabili a tutti, sia chi ha una formazione scientifica sia chi non ce l'ha. Sì, proprio due robe. Possiamo parlare anche di altri libri in questo caso? No, c'è un libro secondo me molto bello di Fabio De Otto che si chiama L'altro mondo, e lui mette proprio insieme anche poi i meccanismi, no, mentali nostri. Adesso non lo dico io perché non è il mio ambito, però sono quelli che si chiamano i bias, che quindi ci rafforzano, no, l'uso di voler leggere questa notizia, perché chiaramente rafforza in noi anche un senso di ottimismo verso il futuro, eccetera. Quindi legare queste due cose qua è molto difficile, è anche molto difficile poi, come diceva Sofia, dimostrare che in realtà tu stai parlando di una cosa sensata, perché magari non è il sole che sta scaldando l'atmosfera negli ultimi anni, ma ci sono degli studi che dicono che è la CO2, e questo è un po' lo sforzo che stiamo facendo tutti quanti insieme. È stra difficile, secondo me è un lavoro enorme, l'ha fatto Stefano in questo libro, per mettere poi a terra tutti quelli che sono, anche appunto come dicevamo prima, i grafici che sono spesso, secondo me, di difficilissime lettura, proprio quando si parla di grafici di clima, delle temperature, cioè non è mai così scontato che una persona li sappia leggere, cioè perché facciamo fatica, io faccio fatica. E non so se magari Stefano vuole fare due parole su come poi portare, diciamo, effettivamente... che quando Sofia e Michele appunto mi hanno chiesto di interagire con loro per la creazione, insomma, di questo libro dal punto di vista grafico, insomma, ho preso la palla al balzo, ero molto entusiasta, insomma, della cosa, anche perché, partendo un po' da prima, non avevo mai affrontato proprio un progetto editoriale anche con delle illustrazioni così ampio, perché ce ne sono davvero tante all'interno, sia di illustrazioni che di infografiche, e vado a parlare subito delle infografiche, come diceva Michele. Quando loro mi hanno chiesto di reinterpretare determinati grafici, no, che sono stati creati giustamente da persone, diciamo così, come loro, degli scienziati, mi sono subito accorto di alcune problematiche visive che dovevano essere superate perché il libro fosse veramente fruibile ad un pubblico più ampio. E qui, diciamo, sono entrato in gioco, diciamo, con la mia creatività, ma anche grazie a loro siamo riusciti a trovare una via di mezzo che permettesse una lettura migliore, no, delle infografiche e dei dati, diciamo così. Quindi alcune anche caratteristiche sono state, alcuni aspetti magari sono stati eliminati a favore di altri più importanti all'interno di queste raccolte dati, e sono stati messi in maggiore, sono stati messi più alla luce. Quindi ho cercato di usare meno colori possibili, di usare la stessa linea grafica per tutte le infografiche, perché le infografiche che mi hanno dato non possiamo farvele vedere, però la base di quelle infografiche insomma, erano abbastanza complesse, insomma, anche per me che faccio un lavoro visivo, insomma, ho dovuto chiedere spesso a loro: ma questa cosa significa? E solo così sono riuscito poi ad avere, siamo riusciti ad avere un risultato ottimale, ecco, quindi questa è stata un po' la chiave di lettura per poter realizzare, insomma, questa parte visiva, no, e comunicativa del libro, ecco. Grazie. Grazie a te, anzi, perché a me, come una persona che soffre di ADHD, è molto più facile leggere un libro con, diciamo, più grafiche, più colore, che spiega molto bene anche il dato di fatto, no? Comunque, stavate parlando anche del mondo digitale e nel libro scrivete che quasi il 50% dei giovani utilizza il cellulare anche durante i pasti. In Italia mangiare insieme è parte della cultura, no? Stiamo perdendo valori culturali fondamentali, secondo voi? In generale, così? ma oddio, sì e no, che domanda difficile. Proviamo a riportarla sul nostro libro, magari. Ma c'è molto più scetticismo, in realtà. Leggevo l'altro giorno che la nuova generazione, la Gen Z, la generazione Z, quella quindi dopo di noi, nati dopo gli anni 90-2000, comunque, è molto più conservatrice su certi argomenti, tra cui appunto anche, a quanto pare, sembra anche tutta la parte un po' di ambiente clima, no? Quindi è più simile magari ai miei genitori che rispetto a noi. E non penso che si stiano perdendo dei valori, si stanno modificando in realtà i valori, no? come tutta la cultura che è sempre andata avanti. Chiaramente dobbiamo capire che il discorso ambientale climatico è un po' il cappello che sta sopra a tutto quanto, a tutti i discorsi, nel senso, comunque è come se i pesci a un certo punto dicessero: non mi occupo più dell'acqua. L'acqua si occuperà di loro, anche il clima si occuperà di noi, se vogliamo. Lo abbiamo visto molto bene appunto in questi mesi con quello che sta succedendo in giro per l'Europa, no? Quindi la Spagna che è stata flagellata da quello che era quell'alluvione tremenda, o comunque anche adesso ritorniamo a riparlare ancora di siccità al nord Europa, mentre sud Europa parliamo di troppa acqua. Cioè, comunque in ogni ambito della nostra vita, il telegiornale si parla sempre, se si parla di clima, non si parla magari proprio di clima, però si parla di meteo, e ti ci insegnerai che sono due cose diverse, però comunque il fatto che l'elemento naturale è sempre parte di noi, e quindi credo che anche i nostri valori comunque debbano integrare, no, all'interno il fatto che comunque noi siamo una parte diciamo degli animali che abitano un ambiente, ecco. Quindi a rispondere alla tua domanda non so se ho risposto, forse sono andato proprio così come le bisce, un po' fuori coso, però non penso che stiamo perdendo troppi valori a causa poi soprattutto dell'uso del cellulare, anzi il cellulare ci dà la possibilità di essere ancora più informati, se lo vogliamo vedere così. Non so se volete aggiungere. No, hai detto tutto. No, mi interessava perché leggendo questa cosa... Ah, che non si sente. Vabbè, l'ho detto a voi. No, comunque, passiamo al legame con il territorio. Com'è secondo voi il rapporto tra chi vive le terre alte e il proprio territorio? C'è un senso di appartenenza, cura o distacco? Vai. Beh, appunto, io parlo da persona che è arrivata alle terre alte da esterna e che quindi, diciamo, si definisce montanara per scelta, e quindi ho un po' imparato cosa vuol dire abitare le terre alte dalle persone che le abitano da quando ci sono nate o comunque da molto prima di me, e io, diciamo, da persona, insomma, più cittadina, ho proprio subito ammirato il fatto che le persone che abitano in montagna, in generale a stretto contatto per la natura, mi sembra che abbiano molto più, non so, insita dentro di sé, senza troppi sforzi, questa sensibilità ecologica di rendersi conto di quello che sta succedendo al pianeta, che secondo me è una cosa di cui bisogna sempre tenere conto anche quando si comunica il cambiamento climatico e si parla di cosa sta succedendo, perché, non lo so, diciamo a un alpinista o a un contadino, chiunque lavori con gli eventi atmosferici in un modo o nell'altro, di certo non bisogna convincere queste persone che il clima sta cambiando, perché lo sanno in primo luogo, cioè che se uno è un gattista che tira giù la neve sulle piste, o se deve appunto portare un raccolto a termine della stagione, è così evidente che tutto sta cambiando, e mi sembra che chi abita in montagna in un modo o nell'altro, che sia per il proprio lavoro che per la propria esperienza personale, questa sensibilità sia molto più spiccata, ed è proprio per quello che spesso cioè è uno dei motivi per cui diciamo che le terre alte possono essere un laboratorio di sperimentazione, di adattamento, no? Perché quando parliamo di cambiamento climatico le due paroline magiche sono la mitigazione e l'adattamento. La mitigazione vuol dire agire sulle cause del cambiamento climatico, e l'adattamento vuol dire adattarsi agli effetti del cambiamento climatico. E le montagne, che purtroppo contribuiscono poco alle emissioni ma subiscono tanto gli impatti, non possono far altro che lavorare sull'adattamento, o perlomeno possono lavorare molto più sull'adattamento che sulla mitigazione. E quindi, ecco, in questo senso spesso vengono definite un laboratorio per il futuro, perché essendo impattate più che altri contesti ci permettono di sperimentare delle risposte, delle modalità alternative di gestire il territorio, che poi possono essere esportate e imparate anche da chi la montagna non la abita. Quindi, ecco, magari i montanari possono anche farsi portatori di questa sperimentazione e quindi insegnare poi ad altri contesti quello che hanno imparato tramite la propria vita in questi territori che sono più colpiti di altri dall'innalzamento delle temperature. Sì, sono una roba, io porto il mio esempio di Belluno, non so se anche a Bolzano è così, però cioè, quello che dici te come laboratorio da noi è possibile perché non c'è nessuno che fa niente, nel senso non c'è nessuno che si occupa, i giovani non si occupano più di politica, chi è adesso che amministra i comuni comunque li amministra cercando di far girare il bilancio, quindi tutte quelle che sono iniziative nuove sono super ben viste, cioè è un po' un po' carta bianca. Adesso io porto il mio esempio del mio comune di San Gregorio, che siamo in 1000 persone, però anche il fatto, cioè come dicevamo prima, un po' il fatto di avere un po' la carta bianca ti permette di sperimentare un sacco di cose, ti permette anche di creare dei festival nuovi, di ritornare a fare comunità che la facevamo fino a 10 anni fa, e magari lo puoi fare tramite delle tematiche nuove, delle sperimentazioni, delle buone pratiche, e sono sempre ben accette. A me piace questa cosa qua, ecco, forse c'è più apertura perché a monte manca tanta cosa, ecco. Sì, mi riferivo proprio alla pagina 130 circa, perché avete parlato della chance, perché in Austria, in Oberösterreich, se non sbaglio, il partito FPÖ ha accolto proprio questo, il cambiamento climatico, perché fa parte della loro cultura, il loro territorio e fa parte del patriottismo. E ero molto sorpresa anche, devo ammettere, che la nostra associazione Protect Our Winters in Austria, perché esiste più o meno in tutto il mondo, ha organizzato un Alm Up Trip, in italiano sinceramente non so come si dice, si portano a valle tutte le mucche. Sappiamo anche noi. Transumanza, grazie, quello che è anche protetto da noi, no? Comunque hanno fatto una cosa molto molto interessante, hanno portato a valle dei manifesti, hanno detto proteggiamo per favore il nostro territorio perché è cruciale per sopravvivere e ha funzionato benissimo. Ma come anche per esempio che hanno organizzato il funerale dei ghiacciai, dove hanno portato un cubo di ghiaccio enorme con diciamo una parte della chiesa in loco a valle, che è stato molto simbolico secondo me. Sì, secondo me questa cosa dell'Austria a me è piaciuta tanto quando l'ho letta, nel senso mi ha incuriosito molto, no? Perché in Italia un po' il discorso climatico è molto ideologico, nel senso che i partiti se lo sono preso come bandierina, però senza guardare che in realtà è un problema comune, no? Come dicevamo prima, quindi se tu voti da una parte allora il clima ti interessa, se voti dall'altra non ti interessa. Attualmente a me sembra che se voti da una parte all'altra comunque il clima è stato un po' abbandonato da tutti, però in Austria in realtà l'FPÖ, quindi l'estrema destra, sta facendo delle cose che neanche nelle città più illuminate d'Italia stanno succedendo, cioè hanno ampliato tutta la parte di ciclabili, hanno fatto delle fermate in più dei treni, stanno riducendo tutto il menù a base di carne sulle scuole cittadine, cioè sono comunque delle azioni, hanno un piano di mitigazione, appunto di adattamento al 2030, che se ci pensi in Italia comunque già noi quando ci pensiamo a queste cose qua diciamo ok, però è già legato a una certa parte politica. Invece sapere che fuori dall'Italia ci sono delle buone pratiche che vengono fatte da qualsiasi parte, quindi proprio chi amministra la città ha a cuore quel territorio là, secondo me è proprio, dovrebbe essere una base di partenza proprio di dialogo, e dovremmo parlarne forse anche di più di questa cosa qua. Cioè quello secondo me è proprio un bel esempio. Sì, anche secondo me. E guardando un po' oltre i confini, visto che abbiamo no, non noi, perché io sono mezza tedesca, perché questo, per questo lo dico, hanno avuto le elezioni in Germania, no? Quindi l'AfD ha ottenuto un risultato storico, come abbiamo visto, e anche grazie a una strategia mediatica che ingigantisce il proprio peso reale, e anche tramite gli influencer o fenomeni come i threat wives, che sono delle donne, dei influencer donne appunto, che vivono dei valori molto conservativi, che si fanno vedere in cucina come cucinano, e tutta la loro vita gira intorno a rendere felice il marito. E ecco, sono in tanti, sono probabilmente ben pagati e appunto io mi chiedo come possiamo evitare che anche in Alto Adige la destra riesca a ingigantire il proprio peso in questo modo. Ma oddio, in Germania la campagna elettorale si è giocata sulle pompe di calore, e nel senso che proprio l'AfD aveva detto che le pompe di calore, cioè mettendo proprio su tutti i social comunque tante fake news, come parlavamo prima, quindi adesso mi viene in mente qualcuna che era che le pompe di calore non funzionano alle temperature basse, che comunque consumano di più durante il ciclo di vita rispetto al resto, e che non mi ricordo più che cosa, era un'altra cosa abbastanza folle. Comunque io che ci lavoro proprio col mio lavoro sulle pompe di calore, è un po', cioè è una lotta che non ti aspetti, secondo me, no? Cioè giocare una campagna elettorale su una tecnologia che diamo per scontato è come dire che vogliamo giocarla sulle lampadine a LED perché ci fanno stare male, no? E, questa è una domanda, insomma, è proprio cruciale, è molto difficile, perché come puoi controllare che effettivamente ogni singolo tassello di quello che può essere la transizione, parliamo proprio solo energetica, no? Quindi le pompe di calore, quindi l'elettrificazione delle case, così, cioè qualsiasi cosa venga messa in dubbio. Però ce lo sta insegnando bene la Germania, ce lo sta insegnando molto bene gli Stati Uniti, che hanno deciso di bloccare tutti quelli che sono le costruzioni delle pale eoliche, pensa a te, Trump, dicendo per salvare le balene, perché così non si schiantano sotto il mare, quindi c'è sempre un po' di protezione ambientale sotto anche su questa cosa qua. Non lo so, l'Italia secondo me, forse dopo non so se il Sud Tirol ha una politica più simile a quella germanofona magari rispetto all'Italia, sì, e quindi è possibile che magari anche qua si giochi ancora su questi territori qua. In Italia mi sembra che restiamo proprio a un livello super super superficiale, cioè non andiamo, quella delle pompe di calore in Germania è stata una cosa proprio super verticale, che io non so spiegarmela, non riesco proprio a capire, eppure ha preso molto bene, cioè. Adesso vi dirò io la casa con la pompa di calore questo inverno. Io aggiungo una considerazione che non è proprio sulla politica altoatesina, perché non mi sentirei, diciamo, di saperla commentare bene, però è più un discorso su il ruolo dell'informazione a diversi livelli legato al cambiamento climatico e poi le scelte politiche o comunque chi mandiamo a governarci, perché diciamo che in Italia, ecco, da qualsiasi parte si guardi, c'è un grande problema nell'implementazione delle politiche climatiche, o anche solo nel riconoscere che c'è un cambiamento climatico in atto a livello, diciamo, istituzionale. Cioè noi abbiamo dei ministri che sono il nostro attuale governo, che hanno ripetutamente fatto uscire te negazioniste in pubblico, ma anche, diciamo, in prima televisione, visti da milioni di telespettatori. Cioè, il governo attuale in particolare, ma diciamo vari esponenti di vari colori, non voglio farne una questione completamente, diciamo, politica in questo momento, nel senso di dire che ci sono i buoni e i cattivi. Diciamo che in generale in Italia negli ultimi anni abbiamo assistito a diversi episodi abbastanza gravi da un punto di vista della comunicazione del cambiamento climatico a livello istituzionale, che poi si sono un po' anche concretizzati nell'effettiva assenza di politiche di adattamento e di mitigazione coraggiose, forti, non dico appunto in Alto Adige, ma dico a livello nazionale, quindi che poi potessero svilupparsi e calarsi in delle politiche regionali coraggiose di cui avremmo bisogno. E questo dato di fatto è connesso anche molto al modo in cui parliamo di clima in Italia, che è il motivo per cui abbiamo sentito l'esigenza sia di iniziare a fare giornalismo scientifico, io e Michele, prima di scrivere questo libro, perché comunque è un libro che è arrivato dopo tanti mesi in cui io e Michele abbiamo scritto di clima praticamente quasi ogni giorno, e quindi ci siamo un po' abbiamo un po' preso le misure con cosa vuol dire parlare di clima in Italia, sia parlandone, vedendo la la risposta di chi ci leggeva, leggendo i commenti di chi ci leggeva, su un giornale che comunque era abbastanza seguito e quindi ci permetteva di avere una risposta abbastanza variegata. E ad esempio volevo darvi questo dato che a me sembrava molto interessante: c'è un rapporto che viene realizzato ogni anno da Greenpeace insieme all'Osservatorio dell'Università di Pavia su come i grandi media italiani parlano di cambiamento climatico e analizzano le prime 6 testate in Italia, sono tipo La Repubblica, Il Corriere, La Stampa, L'Avvenire, altri due, e poi analizzano anche i principali telegiornali e comunque canali televisivi, e ad esempio il dato di quest'anno era che si è parlato tantissimo di meno di clima rispetto all'anno precedente, cioè proprio le volte in cui si è parlato di clima sui principali giornali italiani, i principali telegiornali italiani, nel 2024 era almeno 45% rispetto al 2023, che è paradossale se pensiamo alle alluvioni, insomma a tutto ciò di cui sì, c'era bisogno di raccontare proprio per esigenze di cronaca, diciamo. E tra le tantissime cose che evidenzia questo rapporto, perché è un rapporto di tipo 120 pagine, c'è anche il fatto che la maggior parte delle volte nella stampa, sui quotidiani, si parla di clima nel senso di effetti tangibili e sul momento, quindi si parla tipo dell'alluvione che ha tirato giù una strada o che ha allagato la cantina o che ha ucciso X persone, ma non si fa quasi mai lo sforzo di ricollegare questa alluvione a cosa è dovuta, a quali sono le cause, quindi diciamo cercare di formare anche il lettore a leggere un evento singolo in un contesto, in un framework più complesso. E quindi no, in realtà quello che dice lei sono tanti tasselli, no, di un problema più grande. Allora, noi lo sappiamo dalla fine dell'Ottocento con Arrhenius che l'aumento della CO2, no, quindi che è quella data dalla combustione dei combustibili fossili, cioè lo dice Arrhenius, quindi possiamo darlo per scontato che è più o meno 150 anni che lo sappiamo. E quindi l'aumento di questa temperatura globale fa diventare meno stabile anche tutta, poi magari lo spiega meglio Sofia, però tutto il ciclo dell'acqua a livello globale. Quello che dice lei magari sono degli esempi che sono veri, che esistono, perché comunque a Dubai fanno piovere, però questo non vuol dire che è quello il motivo principale, cioè quello è uno dei tasselli che va a influenzare il clima a livello globale, però il clima lo stiamo influenzando da 150 anni, queste pratiche le stiamo mettendo in atto da pochi anni relativamente, no? E sulla superficie globale poi non possiamo neanche dire che non è un puzzle dove io sposto l'acqua, la metto da una parte e così, cioè è proprio un sistema molto molto complesso, no? Il sistema terrestre, il sistema dell'acqua, quindi non so se vuoi aggiungere due parole, però è tutto molto complesso e capire che esistono anche dei modi, no, per influenzare il clima, chiaramente come dice lei sarebbe giusto proibirli, quindi anche la geoingegneria. C'è in corso all'ONU un fatto per dire non possiamo andare a modificare più di tanto il clima di più di quello che lo stiamo modificando, però a monte c'è sempre il problema che noi continuiamo a bruciare petrolio, gas e carbone. Quindi su questi due lati. Ecco, continuo un attimo questa operazione di prendere tutti questi tasselli e collegarli con un filo conduttore. È un dato di fatto che ci sono, ad esempio, degli sconvolgimenti a livello dei regimi di precipitazione a tutti i livelli, cioè anche in alcune zone del Sahara adesso piove e crescono gli alberi, negli Emirati Arabi ci sono delle modifiche, cioè c'è stata un'alluvione a Dubai anche l'anno scorso che ha creato ingenti danni, anche dei morti, ci sono le alluvioni che hanno colpito il sud del Mediterraneo, ma anche insomma l'arco alpino, ce li ricordiamo anche se semplicemente con la nostra memoria negli ultimi 10 anni. Però qui mi sembra che forse si è fatto un pochino di confusione su quali sono le cause, quali sono i meccanismi e quali sono gli effetti, perché le cause sono il fatto che abbiamo emesso dei gas serra in delle concentrazioni molto elevate per più di 150 anni, questi gas serra hanno fatto sì che la temperatura globale aumentasse considerevolmente, questo aumento della temperatura globale ha effettivamente influito sui processi di evaporazione, quindi sul ciclo dell'acqua alle diverse fasce latitudinali. E quindi, ad esempio, le alluvioni sono molto connesse al fatto che un'atmosfera che, a causa di una maggiore evaporazione, contiene molta più acqua allo stato di vapore acqueo, poi ha molta più acqua da rilasciare nel momento in cui questa si raffredda, condensa, diventa pioggia e quindi si creano le alluvioni che sono un po' create anche da questi meccanismi, ad esempio del Mar Mediterraneo che è molto molto caldo, molto più caldo di qualche anno fa, quindi evapora un sacco di vapore acqueo, questo vapore acqueo si sposta nel contesto del bacino mediterraneo quando si, diciamo, schianta su delle montagne, condensa, piove e succedono le alluvioni dell'Emilia Romagna, per fare un esempio. È tutto, effettivamente è tutta una questione di ciclo dell'acqua, però ecco, le cause sono umane, nel senso che sono legate alle emissioni di gas serra che noi abbiamo prodotto nel corso degli anni, ed è il motivo per cui globalmente, a livello regionale, continentale, locale, stiamo cercando di implementare delle politiche che permettano di abbassare le emissioni di gas serra. È il motivo, ad esempio, per cui non bruciamo più carbone, per cui puntiamo alle rinnovabili, per cui cerchiamo di passare a dei veicoli che utilizzino che vadano grazie all'elettricità, o dei veicoli ibridi, comunque a basse emissioni. Cioè, diciamo, il nostro nemico sono le emissioni di gas serra, non è l'evaporazione di per sé. L'evaporazione è una conseguenza di questi processi. Poi comunque, ecco, magari adesso lasciamo continuare la nostra moderatrice con le sue domande, e poi possiamo tornare su questo tema se vogliamo un attimo, appunto, ricollegare i puntini. Mm-hmm. Appunto, è un è una cosa, una tematica molto complessa, per cui grazie anche a Stefano che ha provato a, diciamo, ridurre la complessità al massimo, e è anche ben comprensibile nel libro, devo veramente dire, mi è piaciuto molto. Ma com'è stato il processo grafico per definire colori, stile, icone? Sì, allora veniamo un po' a parlare appunto di questi che sono gli aspetti, insomma, grafici proprio del libro, perché quando Sofia e Michele mi hanno chiesto appunto di partecipare a questo progetto, insomma, mi hanno subito detto che bisognava fare qualcosa di che non annoiasse, qualcosa che facesse prendere il lettore, la lettrice, in un modo diciamo anche leggero, anche un po' meno appesantito da quella che è la classica box testo bello denso di dati e di informazioni. E quindi siamo andati, anche ovviamente con l'aiuto della casa editrice, anche se comunque ho avuto molta carta bianca, devo dire, insomma, anzi, ho avuto carta bianca completa sia da loro, editori, che da Sofia e Michele, nel proporre un layout grafico che innestasse al suo interno, come abbiamo detto già, le infografiche e anche delle illustrazioni che, come dire, aiutassero la lettura, ma anche la rendessero, sì, più leggera, no? un po' più snella, ecco. Quindi ci siamo concentrati un po' su pochi elementi a livello di colore. Abbiamo deciso di usare un arancione, ovviamente, perché è legato al tema delle temperature, insomma, no? E dell'aumento delle temperature, quindi del calore in generale, ecco, in tutte le sue accezioni. Abbiamo usato poi un colore verde, che ovviamente richiama molto il tema energetico e in generale legato al mondo floreale, diciamo così, quindi la natura che ci circonda, perché alla fine lei è una dei soggetti colpiti, insomma, da questa crisi climatica. Abbiamo usato poi un colore un po' più particolare, che è quello del viola, proprio perché rispetto ai capitoli in cui viene usato ci sembrava adatto e completasse anche dal punto di vista grafico, in un'ottica di comunicazione, quindi lì andiamo su un piano un po' tanto specifico nel mondo del graphic design, completasse un po' gli altri colori che ho detto prima. E poi abbiamo usato ovviamente dei colori neutri, quindi bianco e nero. Il bianco sicuramente per i fondali delle pagine è ottimo in questo progetto, e anche il nero ovviamente è utilizzato sia per i testi, logicamente, ma anche per l'inizio e la fine, no, del libro. Diciamo che poi ricordami un attimo, detto grafica e processo visivo, ok. E diciamo che poi anche a livello grafico, oltre i dati, ci sono queste illustrazioni che le ritroviamo sia ad inizio capitolo di ognuno dei capitoli, sia all'inizio dei sottocapitoli, che addirittura all'inizio dei paragrafi nelle pagine di sinistra, nelle facciate di sinistra, che sono proprio a completare i capilettera dei paragrafi. Ci sembrava un modo buono per descrivere ulteriormente, in un modo appunto non troppo pesante, quello che erano già delle informazioni che comunque hanno la loro complessità, possono avere, insomma, ecco. E ecco, questo è il processo che abbiamo utilizzato, insomma, per creare dal punto di vista visivo il libro. E quando hai creato le grafiche, c'era qualcosa di nuovo per te e c'è anche qualcosa che puoi portare nelle tue escursioni, diciamo, come accompagnatore? Assolutamente. E io sono stato contento anche di far parte di questo progetto, anche per io stesso approfondire determinati temi, no? Perché, come ho detto, non sono un ricercatore, uno scienziato come sono Sofia e Michele, quindi ovviamente sono sensibile alla tematica, se no forse avrei detto di no, e al di là del lavoro, però ecco, ho comunque potuto approfondire delle tematiche e quindi, insomma, sono forse il primo, la prima cavia, diciamo, a leggere, aver letto il libro, aver scoperto delle cose nella mia ignoranza, ma buona, diciamo così, ecco, che mi ha permesso di approfondire, no, certe mie conoscenze. E quindi questo per me è stato soprattutto, cioè, è stata una cosa molto importante e è stato un po' un onore anche, no, insomma. E poi devo dire che anche è stato interessante perché abbiamo visto, insomma, ho proposto un po' il nome della casa editrice anch'io, quindi dopo aver fatto altri tentativi, ecco, insomma, quindi diciamo è stato, no, un bel progetto, e un bel processo che abbiamo creato tutti e tre assieme, quindi questo è importante. E queste tematiche, collegandomi alla fine della domanda di Linda, io sono una guida, un accompagnatore di media montagna, sono iscritto al Collegio delle Guide Alpine Trentino e quindi porto persone a far trekking, quindi a camminare, niente di alpinistico o più impegnativo. Però ritengo che al giorno d'oggi anche figure come noi, guide, oltre a portare le persone in sicurezza, farli vedere paesaggi, panorami e via dicendo, sia giusto sensibilizzarle su queste tematiche. Quindi penso che sto già provando a farlo, ma soprattutto poi nel futuro proverò anche a trasmettere in modo semplice magari qualche contenuto che ho imparato tramite questo libro anche, diciamo così, ai miei clienti, no? E alle persone che porterò a camminare. E penso che sia importante farlo proprio perché siamo delle figure che lavorano nel mondo del turismo, cioè dobbiamo farlo proprio per questo motivo. Il turismo, abbiamo visto che ha determinati impatti, sta avendo determinati impatti sulla crisi climatica, quindi è ulteriormente importante farlo proprio perché siamo degli attori del turismo, noi guide, no? Però ci sono tanti altri attori, no? Non siamo solo noi, ovviamente, ecco. Quindi questo. Grazie. Ottimo, grazie. Molto interessante anche il lato operativo, diciamo, perché so com'è, perché lavoro per un'agenzia di design, quindi è veramente faticoso, ma anche cruciale, perché se loro scrivono un bel libro, chi lo legge, se è un libro scientifico, e appunto come abbiamo detto prima, o come avete spiegato voi, che c'è una disuguaglianza tra chi ha studiato o chi non ha studiato, per cui lo ritengo molto importante. Grazie. E adesso passiamo anche al coinvolgimento del pubblico. Io farò delle domande, cioè tranquilli, non niente di che, dovete solo alzare la mano, perché non abbiamo solo dati e fatti in questo mondo, scusate, ma abbiamo anche delle opinioni e mi interesserebbe la vostra opinione su certe tematiche. E niente, ci sono solo delle domande A o B, quindi mi interesserebbe la vostra opinione e poi chiediamo agli esperti e esperte. Ecco, pronti? Quale approccio riduce più velocemente le emissioni, le scelte individuali o le scelte o misure sistemiche, secondo voi? Quale approccio riduce più velocemente le emissioni in questo momento nelle Alpi, le scelte individuali o a livello sistemico? A o B? Ok, a livello sistemico, diciamo, la politica che emette delle misure che... A, alza la mano, a livello individuale, B, ok, B, sistemico, A, capito. Beh, siamo in pochi, quindi potete anche dirlo, volendo. Ok. No. Scusi, A è sistemico e B è individuale? No, A è individuale, B è sistemico. B, tutti a livello sistemico, ok. Riportiamo quella stakeholder forum, bene. Caro Thomas. Dove dovrebbe agire la politica climatica? Prima di tutto, a livello provinciale o a livello nazionale? Chi è per A? B. Eh sì, sono entrambi giusti, lo so, ma perché, cioè, secondo voi cosa ha più valore, più importanza? Tutti e due. Tutti e due, ok. Mani alzate. Beh, sono no, le mie domande della Linda. Da non scienziata. Terza domanda. Cosa funziona meglio per incentivare comportamenti virtuosi? A, il nudging, che è una spinta gentile, che è tipo un incentivo che ti danno il trasporto pubblico a un prezzo agevolato, per esempio. O le punizioni, multe, divieti. Chi è per A? Nudging. B, multe. Ah, interessante, ok. Quale ecosistema è più vulnerabile agli eventi estremi? Le terre alte o B, le valli? Chi dice A? Le terre alte? Scusi, no. Non si chiacchiera quando la professoressa va a fare le domande. Eh sì, quasi non si scherza. Quale ecosistema è più vulnerabile agli eventi estremi? A, le terre alte o B, le valli? Chi è per A? Le valli, B. No? Sì. B. Le valli. È giusto, le valli. Beh, io visto che abito a Salorno, non lo so, ogni volta che piove mi cago un po' addosso, no? Quindi, diciamolo in parole molto franche. Esatto. Per questo mi interessa la vostra opinione, no? Domanda numero 5. Chi dobbiamo proteggere prima? A, gli animali o B, gli esseri umani? A? Sì, lo so. Sì, per questo lo faccio. Non deve rispondere se non vuole. Beh, si può anche vedere l'essere umano come animale, no? Ok, allora siamo per gli umani. Cerco di portare un po' di leggerezza anche in questa tematica, un po' difficile. Ok. Cosa è più pericoloso? A, ignorare il cambiamento climatico o B, negarlo apertamente? Cos'è più pericoloso? Ignorare il cambiamento climatico o negarlo? A o B? A è ignorare, e B è negare. Meglio che lo ignoro e dico no, no, io mi faccio una bella vita in questa vita che ho. Si può riassumere che negare la cosa cosciente ci vuole malevolenza, mentre ignorare è ignoranza, quella si può migliorare. In questo senso è peggio negare. Mm-hmm. Questo potrebbe accomunarci tutti. Mm-hmm. Ok, l'altra domanda. Cosa ha più senso per il clima, diciamo? Mangiare biologico o mangiare regionale? A. Cosa ha più senso per il clima? Mangiare, alimentarsi biologico o regionale? Chi è per bio? Regionale? Ok, interessante. Dai, ci sono delle tendenze, eh? Ok. Ci siamo quasi, dai. Per raggiungere gli obiettivi UE, cosa ha più senso? Cos'è più sensato? Un piano per il clima? Adesso parlo dell'Alto Adige. A, un piano per il clima o B, una legge sul clima? A, piano? B, legge. No, infatti, per questo dico. Mm-hmm. Beh, una legge sul clima è un'altra cosa che un piano, no? Da quello che ho capito io. Infine, grazie a Sofia che adesso lo sappiamo, adattamento o mitigazione? A, adattamento? Anche lì è una domanda, scusi, ormai non. dico in questo momento cosa sente di più? Quale urgenza è più ovvia in questo momento? Per la A, adattamento, o per la B, mitigazione? Ok. Ecco, vedete che c'è una discussione in quella sala, perché alla fine non c'è un giusto o un sbagliato, dobbiamo agire adesso. E questo hanno fatto loro, hanno fatto un grande passo in avanti con questo libro. E se ci sono domande o discussioni, cioè, ok, grazie, prego, vai pure. Io ne ho sei, però sono brevi. Sei brevi, ok. Non finiamo alle 8 di sera, va bene. No, no, no, si può dire. Beh, abbiamo 10 minuti per le domande. Io ve le faccio. Mentre parlo altro, me sono segnato. Arriva il microfono. Grazie. Che si sente meglio. Sì. Grazie. Allora, niente, sono sei domande molto brevi, insomma, rispondete a quello che volete. All'inizio avete detto che avete scritto il libro rivolgendovi all'Alto Adige, e allora io vi domando se sapete dirmi se quindi l'Alto Adige è un po' un benchmark sul tema, e se lo è in termini di arco alpino, Europa, globale e bla bla. Questa è la domanda numero uno. Domanda numero due. Noi come ci possiamo documentare su tutto quello che l'Alto Adige specificatamente sta facendo, anche magari tramite EURAC o il NOI o altre cose in termini di ricerca, finanziamenti, investimenti, leggi, piani, bla, giusto per capire lo stato dell'arte di questo territorio specifico. La terza domanda è... Scusate, intanto il telefono se n'era andato. Sì. E... meglio che rispondono subito. Ah, ok, come volete, cioè io la mettevo lì che sì, se volevano rispondere. No, che sennò non volevo prendere tutta la sera. Brevemente, così poi rispondiamo anche alle altre quattro. L'Alto Adige, diciamo, può essere considerato un benchmark se stiamo parlando degli impatti, perché effettivamente gli impatti che si osservano in Alto Adige si osservano anche in Lombardia, in Val d'Aosta, in Piemonte. Sono, infatti, diciamo, nel libro comunque non parliamo solo dell'Alto Adige, parliamo in generale dell'arco alpino, e poi ci sono delle schede che fanno un approfondimento specifico su dei casi di esempio nell'Alto Adige, però in realtà, ecco, si riferisce a tutto l'arco alpino e in realtà anche a quello appenninico, nel senso quello che succede sulle Alpi succede a maggior ragione anche sugli Appennini, con delle conformazioni diverse chiaramente, quindi delle specificità poi su quali sono i fenomeni in particolare più o meno impattanti, però sì, diciamo, quello che succede qui succede anche, anche negli altri paesi, i nostri cugini alpini. Per rimanere aggiornati sulle politiche diciamo provinciali, se si cerca il Clima Plan 2040, ci sono molte informazioni sulle politiche che si intende adottare in termini di mitigazione e adattamento. Se invece si chiedeva quali sono, diciamo, i siti per informarsi sullo stato del cambiamento climatico e non sulle politiche, sicuramente EURAC è un punto di riferimento, poi in generale tutte le agenzie regionali per l'ambiente. Comunque nel libro abbiamo anche stilato una lista di tutti i siti da tenere a mente, da tenere, insomma, su cui aggiornarsi, perché ovviamente se si vuole sapere cosa succede a livello globale ci si riferisce magari ai rapporti dell'IPCC, che è l'ente che a livello globale studia il cambiamento climatico. A livello europeo, ad esempio, ci sono tantissime informazioni sui siti ufficiali dell'Unione Europea, che molto spesso vengono tradotti anche in tutte le lingue degli Stati membri. Poi a livello alpino ci sono tutti i documenti della Convenzione Alpina di OISALP, che è la strategia europea per l'area alpina, di CIPRA, che è la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. Quindi anche, diciamo, volendo rimanere sull'arco alpino, ci sono tantissimi materiali che vengono aggiornati molto, molto rapidamente. Poi appunto si può andare sempre più nel locale, e direi che il più locale possibile, agenzie regionali per l'ambiente e OIRAC. Vado avanti con le domande. Allora, voi quindi avete detto che nella vostra attività vi dovete rivolgere spesso a un pubblico e avete trovato delle problematiche. La domanda quindi era se sapete dirmi, o dirci insomma, se quello che avete rilevato in Italia è allineato con quello che si rileva a livello europeo, e mi faccio sempre riferimento al fatto che siamo a Bolzano, quindi Alto Adige, quindi arco alpino, o se invece di là le cose vanno meglio o vanno peggio. Il pubblico in termini di, ad esempio, di negazionismo oppure preoccupazione? O... sì, negazionismo oppure disinformazione, non interesse, tutto, insomma. Cioè, se noi avessimo fatto questo incontro in Austria o in Svizzera, avremmo avuto una sala molto più piena, sarebbe stata vuota, ci sarebbero state persone più giovani, ci sarebbe stata persone più preparate, meno preparate. Sapete questa, cioè, com'è la situazione a livello dell'arco alpino? Allora, per andare ad approfondire questi dati consiglio di guardare i risultati di Eurostat, perché ci sono sia delle analisi, si scrive tipo Ipsos, cambiamento climatico e percezione, e sia si scrive Eurostat, cambiamento climatico e percezione. Quelli di Eurostat chiaramente sono più sull'intera Unione, quindi forse sono un po' più interessanti, e ci sono tantissimi dati sia sulla percezione, sul livello di informazione, sul livello di negazionismo, eccetera. Adesso in modo molto in soldoni, poi appunto si può andare a approfondire, però il succo è che chiaramente la sensibilizzazione sta aumentando nel corso degli anni, che riguarda principalmente le persone più istruite e più giovani, cioè quelle che sono effettivamente nate in un contesto già in cui si parlava di cambiamento climatico a tavola o alla televisione o nei giornali. Chiaramente è più facile essere informati se si nasce già in un contesto in cui si è sensibilizzati almeno all'esistenza di queste parole, di questi concetti. E rispetto alla media europea, purtroppo l'Italia è abbastanza indietro, però voglio dire, lo siamo su tanti indicatori relativi alla no, dico che non stupisce, perché anche su altri indicatori relativi ad esempio a quanti giornali leggiamo, a quanto siamo informati in generale a livello scientifico, anche ad esempio a livello medico, cioè ci sono tanti ambiti di comunicazione scientifica che prescindono anche dal cambiamento climatico, e purtroppo non performiamo benissimo, diciamo, a livello comunitario. Ecco. Le domande sono diventate 7. Cioè... Beh, solo un'occhiata sull'orario. Magari volete fare dopo una discussione con loro. Ok, no, per condividere con loro. Sì, ci sono anche altre domande. Facciamo così, ok? Thomas, per favore. Grazie, sì, innanzitutto un complimenti a voi, gli autori, grafici, per questo libro, che è sempre un atto coraggioso anche fare un libro oggi, sapendo che i giovani leggono di meno, però avrebbero più necessità anche di capire bene di cosa si parla, di comprendere la complessità del fenomeno, tutte le conseguenze che ne derivano, come voi li spiegate nel libro, in breve, in una forma grafica molto utile. Quindi sono convinto che servirà, poi arrivo alla domanda che è molto semplice, ma servirà come strumento didattico. Io insegno all'università, materia simile, e sicuramente suggerirò il testo ai miei studenti, perché è proprio utile capire il fenomeno in generale, poi specificamente per le Alpi, che siamo più colpiti, come avete detto anche già prima, del riscaldamento, e poi anche capire come la nostra provincia può adattarsi e può anche naturalmente attivamente partecipare alla mitigazione. Quindi la mia domanda è questa. Provincia di Bolzano, ci sono naturalmente tanti anche di lingua tedesca, avete l'intenzione, anche rivolta la domanda all'editore, di pubblicare questo testo anche in lingua tedesca presso la casa editrice Rezia? Forse dobbiamo far rispondere Felix. Allora, l'interesse, vediamo che il libro è molto importante per la divulgazione scientifica, per il discorso generale, e lo sarebbe anche per il mondo germanofono, non solo per l'Alto Adige, ma anche per il mondo germanofono. Al momento non abbiamo ancora un piano concreto di tradurlo, però ne parliamo sicuramente, e magari lì dovremmo anche un po' adattare i contenuti del libro, perché ovviamente il libro in lingua italiana si rivolge a un pubblico italiano dell'Italia, magari di includere esempi che ci sono però anche esempi della Germania, del nord Europa, però l'interesse c'è, il piano concreto al momento non è ancora stato sì. E un'ultima domanda? Dato che prima mi sono scaldato tanto sulla mitigazione, vorrei chiedervi, dato che voi siete proprio ricercatori e avete il polso della situazione, se si può semplificare così. Mi rendo conto che pretendo troppo, perché sappiamo tutti quanto complessa la cosa, però dal vostro punto di vista settoriale, quanto sia, avete voi un'idea di come noi attivisti potremmo influenzare positivamente il corso degli eventi, almeno per esempio, dato che stiamo parlando in Alto Adige, qui in Alto Adige, dato che avete approfondito la nostra situazione qui locale? Grazie. Posso rispondere io? No, io devo dire una cazzata. Poi. No, io risponderei facendo politica, cioè rendendo l'attivismo a un certo punto. Deve in qualche modo diventare politica, credo, o deve almeno sensibilizzare la popolazione all'andare a votare, perché nella mia appunto esperienza di attivismo climatico, ormai sono più di 10 anni che faccio attivismo climatico e ho cambiato molto nel corso degli anni le mie modalità di farlo, da quelle un po' più, diciamo, impattante a livello visivo, alla Extinction Rebellion, a quella che facciamo con Protect Our Winters, che invece è molto più di dialogo e di compromesso con le istituzioni per cercare magari delle applicazioni forse un po' più concrete, magari meno coraggiose ma più facilmente realizzabili nel breve periodo. Quindi chiaramente anche da attivisti si cambia poi un po' con il tempo la prospettiva, però quello che diciamo ho imparato soprattutto negli ultimi 2 anni con Ci sarà un bel clima, e per quello poi lascio la parola a Michele che ne è portavoce, è che diciamo, se l'attivismo rimane solamente nelle piazze e non riesce poi a portare le persone a votare, le persone a candidarsi, è difficile che crei veramente un cambiamento, o perlomeno può comunque creare un cambiamento, però in un modo molto più lento. Cioè il modo per portare cambiamento in modo rapido, e abbiamo bisogno di un cambiamento in modo molto rapido date le condizioni attuali, è quello di farlo tramite la politica. E quindi ad esempio io recentemente ho seguito un po' le elezioni che ci sono state in Trentino, ed ero molto felice di vedere dei compagni attivisti candidati alle elezioni comunali, perché diciamo anche nel piccolo di un singolo comune si può partire ad esempio agendo sui piani di mobilità locali, su l'energia, sull'alimentazione, cioè si può partire dal piccolo per poi dare dei segnali anche ad un altro, insomma a dei livelli più alti. Sì, io avevo detto di leggere il libro, quello di Malm, come far saltare un oleodotto, però è uno scherzo, non è un manuale questo libro dal titolo. No, secondo me, come diceva lei, oltre che fare politica è anche proprio proporre alla politica delle cose, cioè non serve che noi siamo i primi che ci candidiamo a un consiglio comunale o provinciale, però possiamo portare dei piani. Noi adesso con Ci sarà un bel clima, ti porto il nostro esempio, abbiamo fatto 2 anni di processo, abbiamo raccolto 80 associazioni che si occupano di clima a livello nazionale e abbiamo scritto un libro bianco con 33 proposte politiche per dire: queste sono le nostre proposte, rispondendo sempre alla domanda, vabbè, ma voi che state nelle piazze che cosa volete proporre, che cosa rispondete qua e là? Cioè sono proprio delle proposte molto concrete per dire: noi vediamo così l'Italia al 2030 per avviare la transizione ecologica energetica. Non è che la finiamo al 2030, però cominciamo a iniziarla, quindi cominciamo con la mobilità, cominciamo a parlare di carbon tax, cominciamo a parlare di come produciamo l'energia, cominciamo a parlare anche di come mangiamo, quindi la grande distribuzione, cioè tanti aspetti della nostra vita possono entrare con delle proposte che noi facciamo alla politica senza entrare noi proprio senza metterci la casacca, ecco, del sindaco. E secondo me tutte le due cose stanno bene, e queste cose qua poi sono anche delle cose che noi abbiamo visto vengono recepite, perché sono proposte, cioè quando tu comunque vai a proporre delle azioni concrete la politica ti ascolta, non è che tu gli dici ah ciao, noi ti portiamo un piano, vogliamo le zero emissioni al 2030, se sì ma come lo fai? Cioè è palesemente impossibile, no? Cioè, però cominciamo invece allora a ridurre o a incentivare il trasporto pubblico locale. Cioè, anche l'Alto Adige lo sta facendo bene con questo Clima Plan del 2040, e quello insomma è un bel documento, un bellissimo documento che possiamo prenderlo come base, se vogliamo possiamo dargli una spinta in più, ecco. Ecco, ultima domanda, dai. Giusto per far parlare anche le donne. Grazie. No, allora io vengo da un background un po' internazionale, cioè dagli Stati Uniti, e vedendo quello che è successo negli ultimi 12 anni, secondo me è anche molto importante capire come si può anche isolare questi piani a lungo termine da cambi di amministrazione, che in Italia sembra anche succedere non tra amministrazioni ma infra amministrazioni. Come si potrebbe fare? Perché chiaramente in certi ambiti, anche guardando al lato di alleanze internazionali, concretamente a certi politici non interessa mantenere una continuità. Però a livello anche adesso mi sto perdendo un po', però anche a livello di legislazione provinciale, ma cioè come si può isolare questa cosa? Sì, non so se si è capita la domanda. Penso di sì, cioè, oddio, noi siamo fortunati, penso, da quel punto di vista, perché abbiamo i regolamenti europei che abbiamo approvato, no? Quindi cosa c'è? Il Green Deal, il Fit for 55, il Repower EU, cioè sono tre, e il Restore Nature, cioè tutta questa parte di legislazione europea che comunque dopo arriva ai paesi sotto, e quella la vedo molto difficile da smantellare, no? Ma nel senso, non penso neanche convenga alle nazioni farlo, anche dal punto di vista proprio economico di mercato, cioè nel senso, se tu sei già fuori da un mercato, se dopo torni indietro come sta facendo le auto, la vedo un po' un suicidio. E a livello provinciale forse la Linda può rispondere, secondo me, o la Sofia. Io volevo solo dire che era un po' quello che diceva anche prima Michele, di scindere la questione climatica dalla politica, cioè nel senso che la questione climatica non può essere solamente di un colore politico o di un altro, ma deve essere un interesse di tutti e di tutte, e quindi un cambio di amministrazione, un cambio di visione politica non dovrebbe andare a influenzare anche dei piani, ad esempio, di mitigazione e adattamento. Chiaramente dirlo adesso in Italia sembra è molto difficile, ma non solamente in Italia, cioè in questo momento è una questione che è diventata molto politica, quella legata al cambiamento climatico, e quindi forse il passo indietro è quello della sensibilizzazione, dell'educazione, quindi una volta che ci rendiamo conto, come diceva Michele prima, che non possiamo, semplicemente è un problema di cui non possiamo non curarci, di qualsiasi visione del mondo, della politica, dell'economia, dei sistemi economici abbiamo, allora spero che questo tipo di problemi andrà un po' scemando nel tempo. Sì, sì, no, ma io penso proprio dal punto di vista, cioè penso che dal punto di vista del mercato questa cosa comunque prenderà una certa piega. Cioè adesso abbiamo gli Stati Uniti che ci sono tirati fuori, però mi sembra che la Cina sta marciando di brutto, quindi ora siamo indietro ancora e diciamo ah, ma sai, stavamo bene quando avevamo i carretti o quello è. Quindi cioè, la mia speranza è anche che insieme alla legislazione europea ci sia anche proprio l'industria che tira, ecco. Allora, io posso parlare soltanto dalla mia esperienza con i programmi di sviluppo dei comuni, diciamo comunali, a livello territorio e paesaggio, che queste domande che vi ho appena fatto le ho sentite lì. Sono dei cittadini e cittadine che sono state coinvolte in un processo partecipativo che è unico in tutta Italia, che non esiste a livello nazionale, come l'abbiamo fatto noi in Alto Adige, che neanche in Trentino esiste, e loro l'hanno capito, cioè la sensibilizzazione è arrivata, ma purtroppo a livello istituzionale Io vedo tanto una carenza di professionisti e per questo motivo uno corre sempre indietro l'altro e c'è un altro compito, un altro lavoro da fare, quindi non c'è mai la priorità a... C'è il cambiamento climatico. Per esempio, molto pratico, ho scritto una linea guida, un light farm per la ripartizione mobilità della provincia di Bolzano sulla comunicazione e la partecipazione di progetti infrastrutturali. Non viene applicata, non hanno tempo, nessuno l'ha letto, cioè finisce nella scatola lì. Purtroppo è così, hanno una carenza di professionisti e secondo me bisognerebbe partire proprio dalla ricerca del personale in gamba, studiato, che ha studiato all'estero con degli incentivi. Così si porta avanti l'amministrazione, perché almeno da noi, anche avendo avuto l'esperienza grazie allo Stakeholder Forum, ho visto che la politica più o meno l'ha capito, che bisogna muoversi. Però appunto a livello istituzionale c'è questo problema enorme della carenza e sì. È così, come sappiamo tanti di noi, anche essendo così vicini, anche l'Austria della Germania se ne vanno. Abbiamo visto la stessa cosa con le elezioni a livello comunale. L'11% delle persone che vivono all'estero, che avrebbero il diritto di votare, non hanno votato. L'11% della popolazione altoatesina non ha votato, perché studia all'estero o abita lì, che è iscritta all'AIRES e non aveva la possibilità, perché non c'è la briefal, non puoi chiedere l'elezione, cioè per votare con la lettera, non so come si dice in italiano, ma comunque non c'è neanche la possibilità di votare online, e per cui si perdono tanti voti dei giovani che magari sono ben informati, che sono ben studiati, ma appunto finiamo un po' lì, no? Sempre in questa sacca. Però comunque con questo libro direi che abbiamo una bella base, che possiamo sensibilizzare la gente, che possiamo farlo vedere a tutti e tutte, e cerchiamo almeno noi con PAO, con Protect Our Winters, di portarle anche nella scuola queste informazioni. E grazie a voi che siete stati qua e con grazie noi. Anche a voi, soprattutto alla biblioteca e a te Linda che ci hai moderato con le domande. Prego. E grazie a voi.